Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio e oggi riprendiamo una nuova settimana. Oggi, se avete fatto caso, se avete preso il quotidiano, il Sole 24 Ore pubblica un'approfondita inchiesta su come la crisi ci ha cambiato la vita, dall'alimentare ai trasporti, gli effetti della recessione sulle abitudini degli italiani, imposte a rate, servizi low cost, meno cinema e ristoranti, fra i rimedi delle famiglie. E a proposito della nota più dolente, tasse e imposte, oggi Salva Danaio vi ricorda che sta entrando nel vivo la stagione delle dichiarazioni dei redditi, ed è importante per tutti i contribuenti essere informati sulle possibilità di ottenere qualche sconto dal fisco. E anche se il governo è al lavoro per razionalizzare il sistema e il panorama delle agevolazioni fiscali, ad esempio dal prossimo anno l'accesso agli sconti del fisco sarà riservato solo alle famiglie che rientrano entro un certo valore di ISEE, che è l'indicatore appunto della situazione economica familiare, sono diverse le agevolazioni ancora vigenti di cui è possibile approfittare, dalla detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia, agli sconti sulle cure mediche, sui farmaci e tanto altro ancora. Per cittadini e imprese è importante conoscere le corrette procedure che permettono di ottenere queste agevolazioni. Salva Danaio oggi risponde ai dubbi degli ascoltatori in collaborazione con il Sole 24 Ore, che accanto all'inchiesta di cui parlavamo prima pubblica anche la consueta guida pratica e operativa del lunedì, pensata in questa occasione per fare chiarezza in merito a questi sconti e alle modalità di indicazione nel 730 o in unico. La guida si chiama proprio Tutti gli sconti del fisco. Fra gli autori la nostra Valentina Maglione del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Bentornata e buongiorno anche a Luca De Stefani, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, che pure ha scritto parecchio anche in questa occasione. Dottor De Stefani, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Oggi ce ne aspettiamo tante. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Avete anche altre due alternative per scriverci: salvadanaio@radio24.it, e potete andare a curiosare anche sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Andiamo un po' a vedere la borsa. Allora, vedo che la pressione un po' rispetto alla prima parte della mattinata si è alleggerita. Milano è arrivata a perdere il 3%, adesso cede il 2%. Beh, andiamo avanti così, almeno portiamo a meno 1 fra un paio d'ore la perdita di Milano, speriamo. Ma a parte gli scherzi e le battute, qua la settimana è partita di nuovo malissimo per i listini del vecchio continente, per le borse ancora preoccupate per il debito sovrano, per le condizioni soprattutto dei paesi periferici dell'Eurozona. E dopo che nel mirino della speculazione settimana scorsa è finita la Spagna, stamattina invece c'era rifinita di nuovo il nostro paese, con un calo appunto del 3%, come vi dicevo, sul FTSE MIB, che è il principale appunto paniere della borsa italiana, mentre lo spread, il famigerato spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale, stamattina era ripartito sopra i 400 punti base, è arrivato a 406. Negativa anche le altre piazze. Adesso la peggiore è Francoforte, che cede il 2,48%, Parigi meno 1,76%, Londra meno 1,62%. I peggiori titoli di Milano adesso tocca ad Exor, questo primato, la holding di riferimento della casa Fiat, meno 4,39%, Banco Popolare meno 4,20%, Azimut meno 4%, Popolare di Milano meno 4%, meno 3,85 per STM, meno 3,76 per Monte dei Paschi, oltre 3 punti di calo per Unicredit, Mediolanum, Impregilo, Ubibanca, Fiat, Prismian, Popolare dell'Emilia Romagna, Intesa San Paolo e chi più ne ha più ne metta. Dicevamo poco fa nel giornale radio che per gran parte della mattinata non c'è stato nessun titolo positivo sul FTSE MIB, adesso invece ne abbiamo un paio con prestazioni abbastanza contenute, ma in ogni caso è già un segnale di cambiamento di direzione. Di Assorin più 0,57, Campari più 0,29%. Adesso mi tiro addosso gli strali di qualcuno, ma segnalo anche che oggi la Juventus va bene più 3,71% dopo la vittoria ieri ai danni della Roma, ma in ogni caso qua è l'avvicinarsi appunto della possibilità di una aggiudicazione dello scudetto per la squadra bianconera, appunto a far andare bene il titolo, che comunque non è il migliore anche tra il listino minore. Philips più 12%, Milano Assicurazioni Risparmio Non Convertibili più 5,25%. 26%. La borsa la possiamo lasciare, andiamo al tema di oggi, passiamo da un dolore ad un altro, adesso andiamo a tutti gli sconti del fisco. Con la primavera ormai inoltrata ci si aspetta il bel tempo, ma si entra anche nel vivo della stagione delle dichiarazioni dei redditi. Ed è importante per tutti i contribuenti, soprattutto in un periodo già difficile come questo, essere informati sulla possibilità di ottenere qualche sconto dal fisco. È possibile, ad esempio, chiedere la detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione della casa e del 55% per gli interventi per ridurre i consumi energetici. Si possono ottenere gli sconti sulle cure mediche e sui farmaci. E sono previste agevolazioni anche per le imprese, come l'aiuto alla crescita economica per le aziende che aumentano il loro patrimonio. I lavoratori autonomi e i professionisti potranno approfittare delle deduzioni per gli acquisti di strumenti di lavoro, beni materiali, ma anche software e banche dati. Per cittadini, famiglie, lavoratori autonomi e imprese, quindi, è fondamentale avere ben chiare le modalità e le procedure per ottenere queste agevolazioni, in modo da indicarle correttamente nei modelli 730 o unico. In un momento in cui i pesi sui bilanci degli italiani non mancano, tra IMU e nuovi tributi, preoccupazioni per il lavoro e le pensioni, aumento dei prezzi, ogni opportunità di avere anche un piccolo sollievo non va certamente sprecata. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, o 349 238 6666 il numero per i vostri SMS. Valentina, magari prima di partire con i dettagli tecnici delle agevolazioni fiscali, andiamo ai dettagli invece della guida in edicola questa mattina con il Sole 24 Ore. Stesse modalità di sempre, l'opportunità da parte dei lettori di scrivervi, sì. E poi da domani sul Sole le risposte ai, sì, quesiti. Sì, sì, è ancora aperto il forum, aperto appunto i lettori che possono scrivere per rivolgere le loro domande ai nostri esperti, gli autori della guida. Il forum è reperibile sul sito, vi si accede dalla home page del sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com, è aperto fino a stasera alle 18, da domani sul quotidiano saranno pubblicate le risposte ai quesiti e poi nei prossimi giorni saranno disponibili anche su internet. Sarà possibile inviare domande relativamente agli sconti appunto per i vari soggetti destinatari, quindi partite IVA, famiglie, imprese, che poi sono anche come dire i soggetti che hanno guidato la redazione della guida. I contribuenti tutti. Valentina, sì. Tra l'altro so che molte domande sono già arrivate questa mattina prima della nostra diretta. Quali sono i temi più gettonati, le domande più Ma sicuramente diffuse? Sì, i temi più gettonati sono quelli relativi alla casa, quindi sconti del 55%, del 36% e poi spese comunque sanitarie, spese che riguardano la famiglia, molto probabilmente anche perché mentre le scadenze per la presentazione di Unico sono ancora un po' in là nel tempo, siamo proprio a ridosso della prima scadenza importante relativa al 730, al modello 730. Che va presentato ai sostituti d'imposta. Allora, Luca De Stefani, scegliamo subito il primo quesito da rivolgerle. Il 730 va presentato ai sostituti d'imposta, che sono nella gran parte dei casi sostanzialmente le aziende che si occupano invece di un commercialista della nostra dichiarazione dei redditi, se questa è naturalmente anche delle caratteristiche piuttosto semplici, però il presupposto del 730 è che l'azienda ci abbia inoltrato nelle settimane addietro il CUD, la certificazione sostanzialmente dei redditi percepiti lo scorso anno. Nella puntata che abbiamo dedicato a questo argomento settimane fa abbiamo scoperto che molte aziende erano indietro nella distribuzione di questa certificazione. Si è rasserenata, secondo quello che lei può sapere, appunto, la situazione, oppure ancora molti lavoratori sono in questa condizione, sono privi di questo documento? No, penso che ormai le aziende hanno già consegnato il CUD. È una situazione che capita ogni anno perché le istituzioni ministeriali sono spesso in ritardo. Addirittura quest'anno abbiamo avuto una circolare ministeriale il 28 di febbraio che ha modificato le regole per la compilazione del modello CUD, quindi molte imprese hanno atteso fino a quella data per poterlo predisporre e quindi presumo che per fine di marzo abbiano tutte quante già presentato ai propri dipendenti questa certificazione unica che serve appunto per fare la dichiarazione. Qualche ritardo era stato determinato anche dal fatto che molte aziende purtroppo hanno chiuso lo scorso anno e quindi anche nella organizzazione finale della certificazione fiscale sono state in ritardo anche per questo motivo. L'altra scadenza dopo quella del 30 aprile, De Stefano, è quella del 31 maggio, lì che cosa succede? Sì, il 31 maggio, cioè se chi non presenta la dichiarazione 730 al proprio sostituto d'imposta che ha comunque dato l'adesione all'assistenza fiscale, perché non tutti i datori di lavoro sono attrezzati per ricevere il modello 730 e quindi in questo caso se il datore di lavoro non è attrezzato per ricevere il 730 oppure se un dipendente preferisce non consegnare il 730 al proprio datore di lavoro, l'altra scadenza è il 31 di maggio, dove la dichiarazione semplificata va presentata ad un CAF, ad un dottore commercialista, a un consulente del lavoro o ad un esperto contabile. E quando poi abbiamo la restituzione, diciamo, del risultato finale di questo controllo ed incrocio fra redditi ed eventualmente spese sostenute che si possono detrarre o dedurre, dottor De Stefani? Sì, solitamente nel mese di agosto con la busta paga di luglio, per i pensionati invece abbiamo un mese successivo. Sono calcoli che fa direttamente il nostro datore di lavoro o ente previdenziale e appunto vedremo nel cedolino paga, nella busta paga di quel mese, un importo in aumento o in diminuzione che corrisponde all'importo a credito o a debito che risulta. Sì, diciamo che lì c'è l'adempimento formale, però io penso che magari il commercialista ci fa sapere un po' prima di quale morte bisogna morire poi nei prossimi mesi, De Stefani, certo. Oppure glielo fate scoprire così a sorpresa solo tra 3 mesi. No, certo. Allora in quel caso lì entro il 15 di giugno il CAF o l'intermediario abilitato consegna il prospetto di liquidazione denominato 730/3 al dipendente e quindi in quel prospetto sono calcolati precisamente gli importi a debito e a credito. Benissimo, giornata prima della quale, prima di recarci all'appuntamento con il commercialista, dobbiamo armarci e dotarci di sali e qualcosa insomma per rinvenire dopo essere venuti a conoscenza di quelli che saranno gli impegni fiscali che potranno essere anche di versamento se abbiamo magari fatto qualche lavoro extra o anche di restituzione invece da parte del fisco, ma magari pensavamo di poter ottenere qualcosa in più e invece il bilancio non è così positivo come immaginavamo. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, oggi a Salvadanaio si parla di dichiarazione dei redditi, delle prossime scadenze che dobbiamo assolutamente rispettare e soprattutto di tutti gli sconti che il fisco ci concede ancora, ce ne sono molti a rischio taglio e che appunto è bene che noi conosciamo in modo tale che possiamo alleggerire il nostro versamento fiscale appunto di quest'anno. Allora abbiamo ricordato con Luca De Stefani, esperto in temi fiscali appunto per il Sole 24 Ore, le prossime scadenze, insieme anche alla collega del Sole Valentina Maglione. Tra l'altro possiamo anche ricordare che la guida in edicola stamattina con il Sole 24 Ore, Valentina, ha anche un'applicazione su iPad. Sì, diciamo che è la guida completa 730 che è in edicola da qualche giorno la guida 730 sta approdando anche su iPad, è acquistabile su App Store, quindi si potrà appunto accedere da lì alla guida completa e trovare tutte le indicazioni insomma del modello ufficiale e per la dichiarazione dei redditi insomma comodamente seduti ovunque sì, possiamo conoscere tutti i segreti della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Luca De Stefani, so che lei ci tiene anche a fare una panoramica sull'aiuto per la crescita economica, l'ACE, appunto c'è questa anche questa parte legata alla dichiarazione dei redditi che adesso vi spiegheremo, che riguarda le imprese e le società, però vorrei un attimo andare anche alle domande degli ascoltatori e dei nostri contribuenti di, come dire, taglio economico un po' più modesto e più piccolo e sentiamo allora quali sono i quesiti che ci pongono all'800240024 iniziando da Renzo da Bologna. Renzo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie Renzo. Poi volevo fare due domande, una che mi riguarda personalmente. Allora, tanto per iniziare, da profano non capisco per quale motivo non si possa detrarre tutto con un apposito tesserino, magari accumulando il 10%, così magari uno potrebbe detrarre per il 10% di quello che spende, così non serve evasione. appunto. Vabbè, lì guardi le ricette che si propongono, sono tante, Renzo, e poi sono sempre assolutamente anche pertinenti le osservazioni che fate quando soprattutto siete dei contribuenti che rispettano ogni lettera delle richieste fiscali, Renzo. Comunque, detto questo, poi andiamo avanti. Sarà personalmente. Io ho mia mamma che è in una casa protetta. E allora io non capisco, non so se si possa detrarre questa, diciamo, certificato che mi ha mandato la direzione dell'azienda, che è su 15-16 mila che noi paghiamo, un 5 mila si potrebbe detrarre, però mi hanno detto che si può detrarre o non si può detrarre, non si sa se si può detrarre o non si può detrarre. Allora Renzo, una casa di riposo sua mamma, no? Tra l'altro la retta che paga la paga anche utilizzando, immagino, la pensione della sua mamma, sì. Oppure se ne incarica completamente lei? In parte la pensione, ma non è sufficiente, immagino. Sì, in parte. Però è una casa protetta, quindi diciamo che una certa quota, diciamo, qui in Emilia Romagna, almeno dalla regione, però l'azienda mi ha mandato questo certificato che sono già anni che io ricevo, che si potrebbe detrarre, però i vari uffici di cui mi sono rivolto mi dicono che uno dice che si può detrarre, l'altro non si può detrarre. No, però anche lì la questione è ha ragione Enzo, se le arriva una certificazione nella quale le danno tutta l'indicazione precisa dei soldi che versa questa casa di riposo è perché evidentemente questa certificazione a qualcuno può anche servire. Comunque sentiamo Luca De Stefani che questa mattina si occupa di figli e familiari anche sulle Sole 24 Ore. Si può detrarre questa spesa dalla dichiarazione dei redditi, De Stefani? No, perché di solito questi pernottamenti per il parente presso la casa di cura, comunque presso l'ospedale in generale, devono essere successivi ad un intervento chirurgico, ma per la classica casa di riposo questo non mi sembra sia possibile. Ecco. E quindi per quale motivo allora la casa di riposo invia al contribuente la certificazione illudendolo anche magari del fatto che può essere utilizzata, ma magari ci possono essere dei comuni o delle regioni che offrono un sostegno a fronte di una certificazione e magari rimborsano qualcosa, non lo so, mi sono fatta un'idea. Bisogna vedere anche lo stato di salute e i trattamenti che questa persona riceve dall'ospedale, perché se sono trattamenti necessariamente ospedalieri o comunque in ambito medico, in questo caso è una degenza ospedaliera necessaria per la salute della persona, ma se questo non accade e quindi non vi sono prescrizioni mediche che obbligano i pazienti a rimanere presso la casa di cura, allora non è possibile per la semplice casa di riposo che potrebbe essere considerata come un albergo, diciamo, di poter dedurre questa spesa non medica. Allora, Valentina Maglione, prima ho anticipato che avremmo anche parlato dell'ISE e della riforma, che questo indicatore della situazione economica appunto familiare potrebbe, delle modifiche appunto che potrebbe subire a partire dall'anno prossimo. Sì, certo, perché in pratica il sistema degli sconti fiscali, come noi lo conosciamo, potrebbe andare a cambiare, nel senso che nella manovra Salva Italia, quella varata appunto dal governo Monti, alla fine dell'anno scorso è stata prevista la possibilità di rivedere l'ISEE appunto con un DPCM che dovrà essere emanato entro il 31 maggio, ma il termine, insomma, si tratta di un termine ordinatorio, quindi potrebbe anche avvenire più in là questa modifica e all'ISEE, alla nuova ISEE sarà agganciato il sistema per fruire poi delle detrazioni, fondamentalmente gli sconti fiscali, e quindi tutto questo sistema potrebbe andare a cambiare, presumibilmente restringendosi. Certo, tra l'altro De Stefani, adesso già noi conoscevamo una serie di sconti fiscali legati all'ISE, no? Per esempio mi viene in mente quello relativo alle spese sostenute dalle famiglie che mandano i bambini ai nidi, e quali altri ce ne sono e quali altri invece potrebbero arrivare ad essere agganciati all'ISE, tutti quanti in assoluto, per esempio la ristrutturazione per l'abitazione? Diciamo oggi anche per iscriversi all'università, per il pagamento delle tasse, abbiamo questo parametro, questo collegamento con l'ISEE. Entro il 31 maggio dovrà essere emanato questo decreto ministeriale che collega la fruizione delle detrazioni fiscali, tutte le detrazioni fiscali o comunque di alcune che verranno scelte da questo decreto, anche forse quella del 36% o del 55%, a questa consistenza economica del contribuente. oltre a questo aspetto dell'ISEE, ricordiamo che la riforma fiscale che sta per essere approvata in questi giorni prevede anche la riduzione generale selettiva, non come si diceva prima appunto correttamente, è stata eliminata la riduzione proporzionale di tutti quanti gli incentivi fiscali, ma in base a un rapporto annuale che verrà stilato da delle apposite commissioni parlamentari, verranno stabiliti l'importo totale che lo Stato ha per le spese fiscali, cioè per queste agevolazioni, con un riassunto di tutte le agevolazioni per le persone fisiche e per le imprese, e verranno eliminate quelle, dice la norma, ingiustificate o superate perché ad esempio troppo vecchie. Allora, senta De Stefano, una precisazione ancora relativa alle detrazioni legate all'ISEE dal prossimo anno. Franco da Ravenna ci chiede una ulteriore specifica proprio relativamente alle spese 36-55% legate alla manutenzione straordinaria dell'abitazione e alla riqualificazione energetica, i due incentivi fiscali dei quali abbiamo parlato migliaia di volte, oserei dire. Questo ascoltatore, Franco da Ravenna, appunto ci chiede se questo nuovo legame tra detrazioni e ISE varrà a partire dal prossimo anno, cioè per chi sta già scontando per lavori fatti in passato, dal prossimo, manterrà praticamente il regime oppure gli cambia dal prossimo anno? È una domanda anche che hanno fatto nel forum del sito internet Sole 24 Ore di questi giorni. Ad oggi la norma non prevede questo, prevede solo la riduzione delle detrazioni che verranno scelte comunque con questo decreto ministeriale per le spese sostenute dal 2013 in poi, quindi la stretta si avrà solamente dal 2013 in poi e si presume non per i diritti acquisiti e quindi non per le spese pagate prima del 2013. Anche perché sarebbe veramente folle se magari un contribuente avesse fatto dei lavori importanti quest'anno o l'anno scorso proprio in virtù dell'esistenza di questi benefici fiscali e magari paradossalmente per il parametro nuovo ISEE viene questo suo beneficio appunto a decadere o anche parzialmente o integralmente, ma non sarebbe certo giusto. Allora, un'altra domanda di qualche altro ascoltatore. Patrick da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, sempre inerente alla denuncia dei redditi. Io sono residente a Varese in un circondario inferiore a 20 km dal confine svizzero. Io sono dipendente statale, lavoro in Italia, mia moglie lavora in Svizzera. Quello che volevo sapere, io comunque faccio sempre il modello 730 per scaricare gli interessi del mutuo perché abbiamo un mutuo per l'acquisto di prima casa con interessato. Ecco, e non so effettivamente come si deve comportare mia moglie, essendo lavoratrice svizzera, per fare la sua denuncia dei redditi e magari poter scaricare la sua quota di interessi. Certo, Patrick, ma la situazione lavorativa di sua moglie è nuova di quest'anno, negli anni passati come no, vi siete comportati? Negli anni passati diciamo non avevamo questi problemi, allora lei la denuncia dei redditi non l'ha mai fatta, l'ho fatta soltanto io scaricando quello che volevo scaricare. Ok. Non c'era il mutuo praticamente in passato. Esatto, sì. Ecco, la novità è questa. Sì. La Valentina sorride, non che non abbia mai fatto la dichiarazione dei redditi, nel senso che evidentemente gli era sufficiente la certificazione da parte dell'azienda. De Stefani, esatto. Ecco, sì. De Stefani, come possiamo aiutare il nostro contribuente ad ottenere il beneficio fiscale legato alla detrazione degli interessi passivi del mutuo? Allora, se la moglie è residente all'estero e fa la dichiarazione di redditi all'estero, si applicano delle regole dello Stato svizzero, mentre per quanto riguarda il contribuente, il marito, lui può detrarre la sua quota solamente del mutuo. Altra cosa sarebbe se la moglie fosse residente in Italia, magari fosse a carico e in quel caso si potrebbe detrarre l'intera quota dei 4.000 euro degli interessi passivi in capo direttamente al contribuente. Ma infatti capire appunto che la moglie non fa la dichiarazione di reddito qua in Italia e la fa direttamente all'estero e basta, senza nessun obbligo di farla qui in Italia. Allora, volevo segnalare agli ascoltatori che la questione legata alla riorganizzazione dell'ISE porterà anche qualche cambiamento, almeno in molti ascoltatori ce l'hanno segnalato e noi abbiamo voluto approfondire la questione, la porteremo domani a Salvadanaio. Modificherà la situazione anche per tutte quelle famiglie che hanno a carico persone e familiari con disabilità. Domani ce ne occupiamo appunto a Salvadanaio, perché tutte le persone che ci stanno scrivendo su questo argomento sappiate che domani vi dedicheremo interamente praticamente tutta la trasmissione, perché sono a rischio molti assegni di accompagnamento, da quello che ci risulta, vi ripeto, da quello che ci hanno denunciato molte famiglie interessate direttamente alla questione. Noi cercheremo di capire se questo corrisponde a verità o meno. Domani a Salva Danaio. Allora, tra l'altro oggi è abbastanza improbabile che riusciremo ad occuparci di tutti gli sconti del fisco, e quindi se i nostri ascoltatori sono magari non interessati addirittura ad avere una conoscenza approfondita delle scadenze legate al 730 e quindi non hanno voglia di prendersi la guida da iPad, Valentina Maglione, magari non hanno modo anche oggi di prendersi la guida, da domani sull'online c'è, sì, da domani sull'online c'è il dossier online collegato appunto alla guida sugli sconti fiscali, arricchita con una serie di materiali, tra cui appunto il calendario interattivo delle dichiarazioni e una serie di approfondimenti. In particolare stiamo predisponendo la guida completa a tutti gli sconti per partite IVA, famiglie e imprese, e corredandola con una serie di materiali e documenti normativi appunto che rimandano a quelle che sono le disposizioni fondative poi dei vari sconti. De Stefani, è vero che il fisco è un po' più generoso quest'anno anche per quelle famiglie che mantengono dei figli universitari fuori città, fuori dalla propria città d'origine? Sì, la normativa parte dal 1 gennaio di quest'anno, però, quindi tutte le spese per gli affitti sostenuti per l'abitazione del figlio nella città universitaria estera, straniera, sono detraibili al 19%. È una novità introdotta con la comunitaria del 2010, che parte dal 1 gennaio di quest'anno, quindi con i pagamenti effettuati da quest'anno. Stefani, c'è un commercialista che ci ha chiamato, si chiama Roberto da Milano, che voleva darci qualche delucidazione in più rispetto alle detrazioni, come nel caso di Renzo da Bologna, che vorrebbero sapere se esistono o meno quelle famiglie che hanno delle persone anziane ricoverate in casa di cura. Roberto, buongiorno. In casa di buongiorno. Cura, in casa di riposo, sì. Abbiamo detto delle cose sbagliate? No, volevo soltanto fornire un chiarimento a supporto di quello che è stato già detto. Comunque, a prescindere, visto che comunque è un'esperienza che ho vissuto anche in prima persona per mio padre 4 anni fa, a prescindere dallo stato di salute in cui versa la necessità per autosufficienza per potersi ricoverare in strutture sanitarie assistite, normalmente la certificazione che inviano questi enti è fatta di due voci. La prima voce riguarda praticamente l'importo della retta, che riguarda la degenza vera e propria, e quella non sarebbe detraibile, non è detraibile. L'altra voce distinta e separata da questa è quella dei medicinali che vengono impiegati. E in quel caso invece il familiare che mantiene o contribuisce a mantenere la persona nella casa di riposo può, esatto, può detrarle. Esatto. Ottimo. Esatto. Va bene. Benissimo, grazie molte. Buona giornata, niente, Roberto, giusto? Giusto, grazie. Buona giornata, grazie molte. Perfetto. De Stefani, è proprio vero che non si finisce mai di imparare? Certo. Comunque, ecco appunto, la spesa. No, ma non era una contraddizione. Quella che serve per la persona, per la salute della persona, è detraibile. L'altra no, invece l'aspetto diciamo di permanenza senza medicinali, quella non è detraibile. De Stefani, avevo promesso che gliel'avrei fatto indicare, purtroppo non ci rimane molto tempo, ma abbiamo detto prima, l'ho anticipato, ma ne abbiamo parlato pochissimo, lo dice anche il Sole 24 Ore nella guida questa mattina in prima, che quest'anno praticamente debutta la cosiddetta ACE, che non è la candeggina che conosciamo, ma è l'incentivo destinato a quelle imprese che hanno effettuato aumenti di capitale lo scorso anno. Che cos'è questo incentivo? Sì, è un incentivo che parte dal 1 gennaio dello scorso anno e agevola, consente di dedurre dal reddito il 3% dei versamenti in aumenti di capitale oppure in futuro aumenti di capitale. Questo per le SRL, le SPA e le società in encomi da operazioni. Per le società di persone invece l'agevolazione è ancora più ampia, se le società di persone o le ditte individuali sono in contabilità ordinaria, in quanto si va a prendere il patrimonio netto, l'importo del patrimonio netto a fine anno per determinare e per calcolare il 3%, e questo importo è deducibile dal reddito su cui si calcolano le imposte. Quindi il vantaggio fiscale è molto importante e lo scopo è quello di ricapitalizzare le aziende italiane che spesso hanno un capitale sociale di 10.000 euro o poco più, e però si finanziano troppo dal sistema bancario. Stato con gli squilibri finanziari. Benissimo, Salvo da Palermo, rapidissimo, grazie, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo sapere se era possibile a chi rivolgersi per avere il CUT. Mia figlia ha lavorato, è stata chiamata come insegnante, 3 mesi di supplenza, da ottobre a dicembre. A tuttora non ha preso né CUT né soldi. Deve fare la dichiarazione dei redditi. In che scuola, Salvo, tra l'altro? Pubblico o privato? No, pubblico. Ah, bene. Poi volevo... Potevo aggiungere ancora un'altra cosa. Rapidissimo, perché stiamo chiudendo. Sì, ho cambiato la caldaia in metano e i termosifoni sono detraibili? Grazie, Salvo. Beh, se ha fatto tutto il pagamento con bonifico bancario, eccetera, se la sua abitazione ottiene beneficio energetico, il 55% gli compete. Luca De Stefani, almeno che si sbrighi a chiederlo, perché quest'anno poi lo salutiamo. Certo, per la scuola, invece, in 20 secondi ce la facciamo? Allora, per la caldaia deve essere una caldaia a condensazione. A condensazione. Sì. La detrazione del 55%. Per quanto riguarda lo stipendio, il CUD deve obbligatoriamente essere consegnato entro il 28 di febbraio. È consigliabile una lettera raccomandata. E comunque, se non è venuto il pagamento entro il 12 di gennaio di quest'anno dello stipendio dell'anno scorso, non è obbligato il soggetto a fare la dichiarazione di redditi e a pagare le tasse. Allora, siamo all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Siamo all'ultima settimana di questo cammino che abbiamo fatto, e facciamo una sintesi di alcuni punti cardine. Oggi parliamo di montante contributivo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma Monti-Fornero ha esteso a tutti il metodo di calcolo contributivo. Questo metodo si basa su un concetto chiave, il montante contributivo. Che cos'è? Con il metodo contributivo, l'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi più avrai. I contributi si accumulano su una sorta di conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi rivalutati è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti, detti di trasformazione, legati all'età al momento del pensionamento. Più elevata è l'età, più alta sarà la pensione. Il montante contributivo non è altro, dunque, che la somma dei contributi versati rivalutati. In altre parole, il montante individuale rappresenta il capitale di contributi che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni comprensivo della loro rivalutazione. Quest'ultima viene effettuata sulla base di una sorta di tasso di interesse costituito dalla variazione media del prodotto interno lordo calcolata dall'Istat. Tutti gli sconti fiscali che ci siamo dimenticati li potete trovare oggi sulla guida pratica delle Sole 24 ore. Grazie a Valentina Maglione, a presto. Grazie a te. E a Luca De Stefani, buona giornata. Grazie, arrivederci. A Laura Faggina, oggi in collaborazione a Salva Danaio, Paolo Corleone in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata.